Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'Italia è al centro dell'attenzione in Europa per via della decisione di Standard & Poor's di tagliare il rating sul debito pubblico da A+ ad A. E nel frattempo continuano le preoccupazioni e le discussioni per il salvataggio della Grecia. Questi temi della cronaca finanziaria al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Apriamo dunque con la decisione di Standard & Poor's che ha tagliato il rating sul debito italiano, portandolo da A+ ad A con outlook negativo. Per l'agenzia di rating, gli obiettivi di bilancio fissati nella manovra del governo italiano, a partire dai 60 miliardi di risparmi, sono difficili da raggiungere. Secondo l'agenzia, per il governo sarà difficile insomma far tornare il debito al livello pre-crisi. L'ha detto anche l'analista dell'agenzia, Moritz Kramer, nel corso della conference call dopo il taglio del rating. We have taken the decision yesterday to change the rating to the downside and the outlook remains. Ieri abbiamo deciso di abbassare il rating e l'outlook resta negativo. Ciò indica che nel corso del prossimo anno potremmo considerare se esiste un ragionevole rischio di tagliare di nuovo il rating. La ragione per l'outlook negativo è che notiamo rischi al ribasso per le finanze pubbliche, a cui si aggiungono deludenti prospettive per la crescita economica. Vediamo un'economia che cresce debolmente. Le previsioni di crescita sono dimezzate da qui al 2014 a un tasso medio dello 0,7% e c'è stata una revisione fortemente al ribasso. Le cause sono da una parte un calo della domanda esterna di beni e servizi italiani sulla scia del rallentamento dell'economia europea e mondiale. Dall'altra parte ci aspettiamo un calo anche della domanda interna per effetto delle misure di austerità che verranno introdotte. Il rating dell'Italia resta un rating molto forte. I nostri studi sui default mostrano che finora sui debiti pubblici non c'è mai stata una insolvenza nella categoria A. Non bisogna fraintendere il significato del declassamento sull'Italia, non significa che riteniamo che l'Italia sia a rischio di insolvenza. Anzi, la nostra valutazione A è di livello elevato e quella di un default resta una possibilità molto remota. Tuttavia, i rischi al ribasso sono ben presenti e se il debito cresce ulteriormente, potremo tagliare ulteriormente il rating entro i prossimi 12-18 mesi. We could lower the rating again within the next 12 to 18 months. Restiamo su questo argomento. Abbiamo chiesto una spiegazione sulle motivazioni della decisione dell'agenzia di rating al professor Francesco Daveri, ordinario di politica economica presso l'Università di Parma e membro del comitato di redazione della Voce.info. Sentiamo la sua analisi. È arrivata una valutazione negativa e questo dipende da essenzialmente due cose. Uno è il fatto che la coesione politica della maggioranza non è ritenuta sufficiente. Indubbiamente il Premier ha ragione a dire che lui i voti in Parlamento ce li ha, però quando uno ha i voti deve anche usarli per fare qualche cosa, per fare delle politiche che vadano nella direzione che ci è richiesta dai mercati da un lato, ma anche un po' dalle esigenze di invecchiamento della popolazione italiana, insomma di cose di più lungo periodo di cui ci eravamo dimenticati per troppo tempo. Quindi il problema che indica Standard & Poor's non è tanto su quanti voti può disporre il governo ora nel Parlamento, ma più che altro se riuscirà ad adottare delle politiche che porteranno a una permanente riduzione del deficit e poi del debito pubblico. In passato l'esperienza storica ci insegna che le manovre basate su aumenti di tasse portano con sé aumenti di spesa nel più lungo termine, cioè dopo un anno, dopo due anni. Invece sono le manovre basate su riduzioni di spesa pubblica che riescono a ottenere un effetto più persistente. Tutte e due, manovre basate sulla spesa e manovre basate sulle entrate, purtroppo sono recessive, quindi sono delle medicine amare da prendere, però almeno quelle basate sulla spesa implicano che se si prende la medicina oggi, domani si sta meglio, mentre se quelle basate sulle entrate dicono che prendiamo la medicina oggi, forse dobbiamo riprenderla anche il giorno dopo. La reazione delle borse europee alla notizia del declassamento italiano non è stata quella che ci si aspettava. In un certo senso si trattava di una notizia attesa, ma è sembrato che il mercato azionario e quello obbligazionario l'abbiano totalmente trascurata. Secondo Francesco Daveri, i mercati infatti non guardano solo alle agenzie di rating. La decisione di Standard & Poor's e forse delle agenzie di rating, adesso aspetteremo quella di Moody's da qui a un mese, non è come passare dal giorno alla notte, è un tassello di un mosaico, cioè

c'era consenso e c'era benessere e tutti quanti venivano sistemati. Una volta che è crollato questo giocattolo, come non poteva che crollare, era inevitabile che crollasse, eccoli qua che nascono, non solo che pagano non solo il settore, l'elefantiaco, inefficace e corrotto settore pubblico, crolla tutta l'economia greca ed è questa la responsabilità. Non c'era possibilità che reggesse l'economia greca, perché era totalmente collegata con lo Stato. Nessuna violenza, ma ho fatto uno sbaglio e ho delle colpe morali. Questa è in sintesi la versione dei fatti di Dominique Strauss-Kahn a proposito dell'accusa di tentata violenza sessuale. L'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale in settimana è tornato a far discutere l'Europa dopo l'intervista andata in onda sull'emittente francese TFN domenica 18 settembre. Ma tornando alla situazione greca, Vittorio Darold, che la segue per il Sole 24 Ore, ricorda come proprio Strauss-Kahn si fosse speso moltissimo per gli aiuti alla Grecia. Strauss-Kahn si è speso moltissimo per la Grecia, è stato forse uno dei politici che ha creduto di più nel fatto di dover aiutare la Grecia, non in quanto Grecia, perché come ricordavi sono 12 milioni di abitanti, praticamente il 2% del PIL di tutta l'Unione Europea, quindi poca cosa, ma sapeva benissimo che se non si salvava la Grecia con i 110 miliardi appunto di aiuti che venne fatto esattamente a maggio di un anno fa, non ci sarebbe stato il contagio, perché molti dei problemi erano nelle banche europee che poi a sua volta avrebbero innescato il problema dell'euro. Ecco perché oggi la Merkel dice che se bisogna salvare l'euro. E Strauss-Kahn è stato forse uno di quelli più acuti, più attenti, quello che aveva capito che sarebbe stata la Lehman Brothers dell'Egeo. Lui parlava di Lehman Brothers dell'Egeo. Questa era la sua visione. Attraverso quello che è stato chiamato Securities Markets Program, ovvero il programma di acquisti di titoli di Stato dei paesi in difficoltà, la Banca Centrale Europea ha comprato fino ad ora titoli di Stato italiani per circa 150 miliardi di euro. In chiusura torniamo a sentire un passaggio dell'intervista al professor Francesco Daveri. A suo parere il paese dovrebbe provvedere a riforme più drastiche per evitare il ricorso ad interventi costanti di questo tipo, mentre la Grecia dovrebbe essere finanziata con fondi europei ancora per molti anni per poter effettivamente uscire dalla crisi. Sentiamo. Bisogna fare qualche cosa prima e questo è quello che ci stanno chiedendo i mercati, migliorare la qualità della manovra, fare qualche cosa di più per ridurre la spesa e in particolare anticipare la riforma delle pensioni, che è vero che è stata approvata negli anni precedenti, però da qui al 2030 devono passare 20 anni prima che vada a regime, quindi non un attacco frontale contro il debito pubblico attraverso una patrimoniale di proporzioni gigantesche, che non sarebbe una buona idea, anzi aumenterebbe l'instabilità. Probabilmente invece dare un segnale che si è capito che i problemi del bilancio pubblico italiano sono qua per rimanere anche nei prossimi anni, che quindi bisogna fare qualche cosa per rimediare a questo. Io continuo a pensare che Grecia e Italia giochino in campionati ancora un po' diversi, quindi la cosa che ci sarebbe da fare, che probabilmente sarebbe stato da fare fin dall'inizio, è non essere troppo ottimisti sul fatto che la Grecia possa, come si era scommesso appunto all'inizio, ritornare rapidamente sul mercato dei capitali. Ecco, la Grecia dovrebbe essere trattata un po' come l'America Latina degli anni Ottanta, cioè dovrebbe stare per una decina d'anni lì a ricevere soldi, cioè per finanziata sostanzialmente con fondi pubblici che vengono dall'Europa e nello stesso tempo però intraprendere le riforme strutturali che deve intraprendere per poter stare all'interno dell'Unione. Se non si fa questo, prima o poi ci sarà la necessità per i greci di uscire unilateralmente dai trattati, anche se questa è una strada tutt'altro che priva di incognite. E per questa settimana, con Economia in Europa, è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.